want me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, Soundcheck. Microphone check. Il suono della musica di JJ Telesforo. Puntata numero 148 del Soundcheck di Radio 24. Buonasera a tutti voi da JJ Telesforo e buonasera anche al nostro dottore in comunicazione Francesco Tromba, che collabora con la nostra rubrica musicale ormai da più di un mese e che ultimamente ha fatto anche un'esperienza particolare legata alla musica, anche se mi sa di musica ne ha ascoltata ben poca, perché è stato assoldato nei tre giorni di produzione, ovvero di preselezione, addirittura di 6.000 candidati che si sono presentati per la prossima stagione di X Factor, il tutto al Pala Lottomatica di Roma, credo un paio di settimane fa. Che cosa è successo, Francesco Tromba? Intanto buonasera e bentornato. Che cosa è successo al Pala Lottomatica e perché ti sei trovato lì? Mi sono trovato lì a fare appunto le selezioni e si sono presentate circa 5-6 mila persone, anche perché la tappa di Roma prevedeva tutti i candidati del sud, sicuramente sono venuti a Roma perché è più vicina, perché le altre tappe saranno Bologna e Torino. Bologna, Torino e Roma per selezionare quindi alla fine circa 15.000 artisti, se questa è la media. Se 5.000 erano a Roma per il Sud Italia, posso immaginare poi nelle altre tappe, quindi più o meno 10-15.000 ragazzi che aspirano a diventare delle pop star. Perché? In realtà ragazzi e non solo, perché anche ci sono anche over 30, diciamo, o anche over 40. Ah sì, e che quindi cercano una chance ulteriore per poter esprimere il loro talento. Come funzionava il tutto? Allora, il tutto funzionava, si chiedeva semplicemente di rimanere o per fare delle altre cose, magari solo delle foto, dei video, agli altri invece veniva chiesto di andar via, però non è detto che quelli a cui viene chiesto di andar via non tornino. Cioè, quindi la prima scrematura veniva fatta senza neanche ascoltare la voce di queste persone, bastava guardarli e mandarli a casa. No, si ascoltava la voce con un mini provino, diciamo, di 30 secondi a canzone. In 30 secondi selezionavano, cioè riuscivano a capire, beh sì, certo, se ci sono quelli che sono dei pipponi terribili, li vedi subito, glielo leggi in faccia che vanno lì piuttosto per vivere una giornata diversa, no? Che impressione ti ha fatto questa macchina bellica? Intanto c'era un caos assurdo, perché riuscire a gestire 5-6 mila persone in tre giorni è veramente difficile. Poi ovviamente in realtà c'era molta gente in cerca dei 15 minuti di notorietà di cui parlava Andy Warhol. E li hanno trovati? Tanti no, la maggior parte no. La maggior parte sono tornati a casa. Allora va bene, lasciamo perdere X Factor, poi magari ne parleremo in un'altra occasione, ma veniamo alla puntata di oggi, perché stiamo per affrontare, anzi siamo entrati nel vivo della stagione primavera-estate della discografia e della musica. Fra pochissimo partiranno tutti i festival blues, jazz e di vario tipo, tanti concerti in Italia, tanti concerti in giro per il mondo. Annunceremo gli appuntamenti più interessanti della prossima settimana in Italia e all'estero, ma veniamo alla nuova discografia, perché sono usciti dischi meravigliosi e oggi quindi vogliamo presentarvi tantissime novità, e ce n'è una che mi ha colpito moltissimo, di un artista che ha firmato da pochissimo un disco per la Sony Music, esattamente per l'etichetta OK, in virtù anche della sua producer, che è una star di prima grandezza del jazz internazionale, la nostra amica Didi Bridgewater, che ha scoperto esattamente dopo un concerto a Shanghai il talento di questo giovane trombettista. Quanti anni ha Theo Crocker? 29. 29 anni per Theo Crocker, musicista americano che gran parte della sua carriera, perlomeno gli ultimi anni, li ha trascorsi in Cina, esattamente a Shanghai, dove era artista residente di questo bellissimo club che io ho visitato anni fa in occasione dell'Expo Internazionale nazionale, andammo lì con una rappresentanza di musicisti di jazz italiani proprio per dar vita a una 4-5 giorni di jazz italiano, insieme a Bollani, Fresu e tutti gli altri, e quindi lì ho conosciuto Theo Crocker in questo bellissimo club che si chiama, come si chiama? Blues and Jazz House. Blues and Jazz House di Shanghai, e lì ho conosciuto Theo Crocker con la sua tromba, che quindi approda discograficamente alla Sony, disco, primo album importante per lui, prodotto da Didi Bridgewater, che infatti lo affianca come special guest in questa composizione intitolata Save Your Love for Me. Didi Bridgewater e Theo Crocker aprono il soundcheck di oggi qui su Radio 24. La Afrophysicist, ovvero l'afrofisico invece di essere astrofisico, e afrofisico il nostro Theo Crocker, che appare nella copertina di questo suo primo disco per la OK Sony Music come distribuzione e produzione di Didi Bridgewater, truccato proprio da, come possiamo dire, da cosa? Da forse primitivo africano, da un qualcuno delle tribù africane. Così, ecco, da capotribù, ecco, da capotribù. E Theo Crocker sarà in concerto a New York proprio con Didi Bridgewater nei prossimi giorni. Quando? Sì, sarà il 27 e il 28 al Jazz Standard insieme a Didi Bridgewater. Invece il 30 maggio ci sarà un festival nel New Jersey in cui ci sarà anche Roy Hargrove, che collabora anche lui in questo disco di Theo Crocker. E infatti, allora ascoltiamo subito questa collaborazione fra due trombettisti, però qui Theo Crocker suona il suo strumento, invece Roy Hargrove viene coinvolto come vocalist, perché Roy Hargrove è anche un eccellente cantante. Il brano, una composizione di Roy Hargrove, si intitola Roy Alan. Theo Crocker al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Puntata del nostro soundcheck dedicata alle produzioni per la stagione primavera-estate. Nuove pubblicazioni, ce ne sono tantissime, ne parleremo nel corso di queste due ore qui al soundcheck di Radio 24. Ma prima di ascoltare la band che porta questo nome, Great Voices of Harlem, le grandi voci di Harlem, con Gregory Porter, Donald Smith e Mansur Scott coinvolti, dal trombonista tedesco Paul Zauners, che guida da anni la sua Blue Brass Band, direi di annunciare un appuntamento imperdibile che ci sarà in Sardegna, un appuntamento importante per un concerto benefico dedicato alle vittime dell'alluvione, concerto realizzato e ideato dal nostro trombettista Paolo Fresu, che ha coinvolto quindi per sabato 31 maggio lì in Sardegna, adesso il nostro Francesco Tromba ci dirà anche la location esatta, una serie di artisti a cavallo fra il jazz e la musica d'autore. Non so se vogliamo dare qualche nome, Francesco. Sì, allora Luca Quino, Samuele Bersani, Cristiano De André, Eugenio Finardi, il Devil Quartet di Paolo Fresu, Rafael Gualazzi, Franca Masu, ci saranno anche gli attori Ascanio Celestini, Lella Costa e Neri Marco Re, anche Gian Maria Testa sarà presente, e molti altri, sono veramente tantissimi. Sì, fra gli altri ci sarà anche un giovane musicista pugliese, Raffaele Casarano, contraltista, che ha prodotto il nuovo album proprio per la nuova etichetta di Paolo Fresu, e ce ne parlerà domani sera. Sì, perché domani torna il soundcheck con il doppio appuntamento dalle 15.30 alle 16.30 e poi seconda parte a partire dalle 19.15 con ospite il nostro Raffaele Casarano, proprio per parlare anche di questo concerto. Quindi 31 maggio, la location qual è? L'Arena Grandi Eventi di Sant'Elia, a Cagliari. Bene, a Cagliari, quindi il 31 maggio per Sardegna Chi Ama, concerto organizzato da Paolo Fresu. Torniamo alla discografia, dicevamo Great Voices of Harlem, le voci di Gregory Porter, Donald Smith e Mansur Scott, riunite da Paul Zauners, trombonista tedesco, con la sua Blue Brass Band. Il brano che vi presentiamo è il primo brano che vi presentiamo è un classico di Herbie Hancock, ovvero Watermelon Man, affidato alla voce bellissima di Donald Smith, qui al soundcheck di Radio 24. Oh, I just started drooling. Do you understand? Do you understand? Do you understand? Do you understand? Watermelon woman is here. Deep, deep, deep down in this wagon, watermelon woman is right here. You better hurry up, you better hurry up and come on and get your watermelon woman, 'cause she's deep, deep down in the wagon. You got to start digging, you got to start digging and find the dinner. Hey, hey! Una produzione tutta tedesca, qui al soundcheck di Radio 24, Great Voices of Harlem, appena pubblicato questo album che vede la partecipazione di cantanti di prima grandezza che vengono giustamente, come il titolo dell'album ci suggerisce, da Harlem, ovvero Gregory Porter, Donald Smith e Mansur Scott, guidati da Paul Zauners con la sua Blue Brass Band. C'è un altro brano che vogliamo presentarvi da questo album che vede sempre Donald Smith come cantante. C'erano anche i brani cantati da Gregory Porter, però sinceramente quelli che mi sono piaciuti di più, caro Francesco, sono quelli interpretati da Donald Smith, forse perché la scelta del materiale era più interessante. Il brano si intitola Expansions, una composizione dell'organista Lonnie Liston Smith, qui al soundcheck Radio 24, per presentarvi un altro brano tratto da Great Voices of Harlem. Soundcheck, il suono della musica. Tell me if you love me right now. Tell me if you want me right now. You make me think you like it when we kiss, but still you never say so. So if you're only playing, let's stop, 'cause I'm nearly blowing my top. And if you care, say you do, but if you don't, baby, tell me right now. You got a smile I love, and you're the style I love, and your caress is all my heart is dreaming of. But if you keep stalling, by the time we click, I'll be turning gray and you'll be walking with a stick. So if we're gonna make it, let's start, 'cause you're overworking my heart. I've confessed I'm with you, and if you with me, you better tell me right now. You got the smile I'd love, and God knows you're the style I love. Your caress is all my heart is dreaming of. But if you keep stalling, by the time we click, I'll be turning gray and you'll be walking with a stick. So if we're gonna make it, we'd better start, 'cause I'm overworking my heart. You're the guy that I love, that I can't deny. And all you ever give me is just an alibi. And baby, I've decided now it's do or die. So tell me if you love me. E soltanto i più attenti avranno riconosciuto la voce di Aretha Franklin ripresa nel 1961 in studio di registrazione insieme al combo riunito dal pianista Ray Bryant. Album ripubblicato, questa è una ristampa in digitale con Aretha Franklin in evidenza, che canta però un repertorio al quale non siamo abituati, un repertorio molto più vicino al soul classico, al primo rhythm blues e anche allo swing tipico di Ray Bryant con il suo pianoforte e i suoi musicisti. Aretha Franklin, il brano era Right Now, qui al Soundcheck di Radio 24, anche perché noi lo abbiamo detto spesso, ascoltiamo le nuove produzioni, siamo proiettati nel futuro, ma non dobbiamo mai dimenticare. E purtroppo fra i tanti artisti che ho incontrato, conosciuto e intervistato manca Aretha Franklin, ma in pochissimi hanno avuto la fortuna di vederla fra gli italiani, perché come saprai, mio caro Francesco Tromba, Aretha Franklin non prende l'aereo, e sai perché? Non lo so. Ecco perché rimase talmente scioccata dopo l'incidente aereo di Otis Redding, quando cadde con l'elicottero lì nel lago di Madison, Wisconsin, che decise di non volare mai più. E infatti per vederla dal vivo bisogna aspettare che la signora Aretha Franklin si trasferisca con un bell'autobus o una bella limousine o in treno all'interno degli Stati Uniti. Difficilmente Aretha Franklin la ritroviamo all'estero, perché dovrebbe affrontare un viaggio in nave. Lo prendiamo noi l'aereo, allora. Lo prendiamo noi per andare a vedere Aretha Franklin, che comunque pare che non stia benissimo fisicamente, quindi non fa più tante performance, ma ha fatto tantissimo. Allora ascoltiamo ancora Aretha Franklin con un brano che sinceramente non mi sarei mai aspettato di ascoltare dalla voce strepitosa, potentissima della grande Aretha Franklin, un brano intitolato Over the Rainbow. E quindi possiamo capire che Aretha Franklin ha un grandissimo cuore, oltre alla voce inimitabile che ci propone da sempre. Aretha Franklin al Soundcheck di Radio 24. Gonna be somewhere. Eh sì, proprio da non perdere questo album che viene pubblicato nuovamente in digitale, con protagonista la voce di Aretha Franklin, questa cantante potentissima nella vocalità che ha fatto la storia della black music, accompagnata però da un organico tipicamente jazz in questa operazione in studio di registrazione realizzata nel 1961. Aretha with the Ray Bryant combo. Abbiamo ancora qualche minuto a disposizione, direi di sfruttarlo per ascoltare un'altra traccia bellissima realizzata da Ray Bryant con Aretha Franklin. Però prima di tutto vorrei ricordare i nostri contatti, mio caro Francesco Tromba, perché tu stai lavorando anche per la comunicazione. Ti abbiamo scelto proprio per questo motivo, perché sei dottore in comunicazione, quindi le nostre pagine sono attive su Facebook. Qual è il nomignolo che bisogna cercare? Soundcheck 24? Soundcheck Radio 24. Soundcheck Radio 24 su Facebook. Anche su Twitter siamo più o meno operativi, ma l'indirizzo di posta elettronica, quello funziona sempre, quindi pian piano rispondiamo a tutti gli amici che ci chiedono informazioni sui brani in Airplay. Quindi l'indirizzo di posta elettronica che ci riguarda è soundcheck@radio24.it. Allora chiudiamo questa prima parte con Aretha Franklin. L'abbiamo detto, impossibile seguirla dal vivo perché non viaggia, e allora non ci resta che ascoltare un'altra traccia. Questo è un classico di George Gershwin, quindi ascoltare un classico di di George Gershwin, tipico del jazz, rivisitato da una voce soul come quella di Aretha, e insomma non è cosa da tutti i giorni. Eccola qui, It Ain't Necessarily So, per Aretha Franklin con Ray Bryant al soundcheck, e chiudiamo la prima parte. It ain't necessarily so. So the things that you're liable to read in the Bible, it ain't necessarily so. Now little David was small, but oh my. Can you hear me? Wow, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me. Sound check, il suono della musica. Siamo quasi pronti per incontrare fisicamente Mahir Andraghi al Blue Note di Milano, che sarà in concerto il 28 di maggio, quindi fra qualche giorno anche noi ci sposteremo per raggiungere Mahir Andraghi al Blue Note e poi intervistarla, e quindi presto vi proporremo al soundcheck l'incontro con questa artista con origini capoverdiane, con un nuovo album intitolato Lovely Difficult, e il brano che vi abbiamo presentato era la bellissima Ilha de Santiago, la isola di Santiago, per Mahir Andraghi, una composizione scritta per lei da Mario Lusio. Questo è il soundcheck di Radio 24 con Gegé Telesforo e il nostro Francesco Tromba. Ci sono tanti concerti da seguire, per esempio che cosa possiamo consigliare ai nostri amici per la prossima settimana? Dimmi tu. Allora, sempre al Blue Note di Milano, il 25 ci sarà Fabrizio Bosso. Quindi domani? Sì, Fabrizio Bosso con il suo nuovo quartetto. E invece a Roma, alla Casa del Jazz, il venerdì 30 maggio ci saranno i due pianisti Enrico Intra e Enrico Pieranunzi. Che incontro, ma con due pianoforti? Sì, due pianoforti. Ma che meraviglia! E invece il 31 maggio, il prossimo sabato, ci saranno Gino Paoli e Danilo Rea a Sanremo, al Teatro Ariston. E abbiamo parlato dell'album che hanno realizzato insieme Danilo Rea e Gino Paoli, che ormai fanno coppia fissa da un po' di tempo a questa parte, per celebrare il songbook di Gino Paoli, ma per esempio nell'ultima operazione discografica, la canzone napoletana, abbiamo presentato questo disco. E invece dedica alle canzoni italiane l'ultimo album la vocalist Chiara Cibello, che abbiamo intervistato e incontrato qui al soundcheck di Radio 24 la settimana scorsa. Ci ha parlato di questo album prodotto insieme a Nicola Conte, album che vede la partecipazione di vari special guest, fra i quali Gilberto Gil, Chico Buarque, Giollanda, la sua amica Anna Carolina, e poi la partecipazione in questo brano che andiamo a presentarvi, tratto dal repertorio di Michel Legrand, un brano in origine intitolato The Windmills of Your Mind, in italiano I mulini dei ricordi. E quindi Chiara Civello in questo brano incontra Esperanza Spalding, che canta però il testo nella versione inglese. Come hai trovato la produzione di Chiara Civello? È molto interessante, perché anche appunto questi incontri sono proprio azzeccati, aggiungono quel non so che alla canzone italiana. E allora aspettiamo anche di vedere dal vivo Chiara Civello con questo repertorio tratto proprio dal songbook tipicamente italiano, con composizioni di Sergio e Endrigo, ma anche altro materiale molto interessante e curato musicalmente dal suono tipico di Nicola Conte. Eccola qui Chiara Civello con Esperanza Spalding in I mulini dei ricordi di Michel Legrand. Gira come cerchi nella sfera, come ruote nella ruota, un inizio senza fine, quando la mia mente è vuota, una neve di passione o un pallone a carnevale, come un circo che festeggia mentre i fili stanno male, come il tempo le cui mani strappano ore dal suo viso, ed il mondo è la mia mela e si maschera di vero come i cerchi dentro un cerchio. Soundcheck, il suono della musica. Cambiamo il suono qui al soundcheck di Radio 24 perché arriva il tocco tipicamente brasiliano di un musicista, soprattutto compositore, bravo cantante, nato a San Paolo nel 75, il signor, il maestro Toco Giunto, con nome d'arte Toco, nuovo album per lui intitolato Memoria, per questo musicista che da diversi anni frequenta il nostro paese, avendo lavorato anche lui con Nicola Conte, nel periodo forse brasiliano potrei definire quello di Nicola Conte dell'inizio degli anni 90. Allora, Toco con Memoria approda al soundcheck con questo nuovo album e qui incontra la voce di un'altra cantante brasiliana molto brava, si chiama Nina Miranda, ottima produzione, una produzione italiana per la Schema Records, il brano è Cigana, qui al soundcheck di Radio 24, Toco. Bene, verifichiamo allora i concerti a New York con il nostro Francesco Tromba. Che cosa possiamo andare a vedere nei prossimi giorni? Allora, John Legend il 26 e il 31 sarà prima nel New Jersey e poi a Brooklyn. E questa è una cosa che devo dire ad alcune amiche che adorano John Legend. Esatto, e ci sarà anche Jamie Callum il venerdì 30 maggio all'Howard Gilman Opera House, sempre a Brooklyn. Sempre a Brooklyn, questo a New York. Se invece ci dovessimo spostare nella West Coast, per esempio a Los Angeles, cosa possiamo andare ad apprezzare? Bilal, abbiamo già sentito. E quello lo vedrei volentieri, è proprio il mio genere. Domenica 25 al Gaslamp Long Beach, quindi ammazza, una venue eccezionale, eh? Sì, sulla spiaggia, penso sia una specie di ristorante pub sulla spiaggia. E invece il 30 e il 31 ci sarà Sixto Rodriguez, però purtroppo la data del 31 è già sold out per Sixto Rodriguez. Scusami, chi è Sixto Rodriguez? È un musicista americano diventato famoso negli ultimi anni, lui ha 71 anni, era famoso in Sudafrica ma non sapeva di essere famoso in Sudafrica. C'è un musicista americano che era famoso in Sudafrica e non lo sapeva, poi cos'è successo però? Nel 2012 è uscito questo film documentario sulla sua vita ed è diventato famoso a livello internazionale, tanto che tutte le sue date praticamente sono sold out. È come la data del 31 al Greek Theater di Los Angeles, quindi questi concerti, gli appuntamenti nelle capitali della musica americana come New York e Los Angeles. Torniamo invece alla musica di Toco, abbiamo presentato Memoria, nuova pubblicazione per questo artista compositore brasiliano, e chiudiamo allora con Bate. Toco al soundcheck di Radio 24. Bate o corpo no ar, sempre a mesma canção. Se você ligar agora, eu vou. Bate o tempo no ar, sempre o mesmo refrão. Se você chamar agora. Soundcheck, il suono della musica. Sempre in contatto con la prova del suono di Radio 24 in questa puntata dedicata alle nuove produzioni discografiche, e fra i dischi più belli che ho ascoltato in questi giorni c'è questo album intitolato Jazz Racine Haiti, proprio perché è dedicato a questa isola magica, album realizzato dal sassofonista tenore Jacques Schwarzbart. Non tutti lo conoscono, anche i musicisti di jazz italiani non frequentano assiduamente la musica di Jacques Schwarzbart, perché è un musicista particolare, sì, un musicista che si è formato con il jazz, ma nel suo DNA ha una particolare predisposizione per l'Africa, per il ritmo africano. Per quale motivo, Francesco Tromba? perché sua madre ha origini delle Guadalupe e lui ha viaggiato molto insieme ai suoi genitori, che erano entrambi scrittori, ed è stato parecchio in Africa, tanto che i primi strumenti che ha suonato sono stati delle percussioni africane. E quindi si è formato musicalmente in Africa seguendo i viaggi di papà e mamma, due intellettuali. In questo melting pot culturale è cresciuto Jacques Schwarzbart, che poi, trasferendosi a New York, certamente si è diplomato in musica. Oggi ha 52 anni e si è tolto varie soddisfazioni. Ha suonato nelle band di Roy Hargrove, di Erykah Badu, ha incontrato D'Angelo, che gli ha dato anche un appellativo. Infatti Jacques Schwarzbart è famoso nell'ambiente R&B come Brother Jacques, lo sapevi? Lo sapevo, l'ho appena letto in realtà. Ecco, molto bene. Allora, il nostro fratello Jacques realizza questo album dedicato ad Haiti, isola magica dove ancora oggi si fanno riti voodoo, quindi attenzione per chi ci crede in queste cose. Tu ci credi? Non tanto, veramente. Non tanto, ma è strano perché tu sei calabrese e in Calabria pure ci sono delle belle fattucchiere. Sì, il Malocchio è famoso in tutta Italia. E allora dovremmo fare un upgrade facendo un viaggio ad Haiti, dove ha vissuto Jacques Schwarzbart, e da Haiti arrivano anche alcuni musicisti coinvolti in questa operazione discografica bellissima. Vi assicuro, un disco da non perdere, dove c'è di tutto, strutture tipicamente jazz, assoli, anche delle belle voci e tantissimo groove africano. Allora ascoltiamo la voce di Rosna Zila, voce particolarissima, bellissima, in questo brano intitolato Badesile, da questo album. Questa un'anteprima del soundcheck di Radio 24 per Jacques Schwarzbart. Album, lo ripeto, si intitola Jazz Racine Haiti, e questo è uno dei dischi più belli della stagione. Eh sì, possiamo dirlo, la magia creata da Jacques Schwarzbart per questo Jazz Racine Haiti, album dedicato ai riti voodoo e alle tradizioni tipiche dell'isola di Haiti, qui al soundcheck di Radio 24. Ma ascoltiamo fra pochissimo anche un altro estratto, proprio per presentarvi nel modo migliore i suoni tratti dalle nuove pubblicazioni discografiche. Ci sono altri concerti in giro per il mondo, abbiamo raccontato quelli più interessanti nel nostro paese. La prossima settimana siamo stati a New York, a Los Angeles. Dove ci spostiamo adesso? A Parigi, e rimaniamo sempre in tema di voodoo, perché ci sarà Dr. John and the Night Trippers alle Trianon mercoledì 28 maggio. Eh sì, perché se si fanno i riti voodoo ad Haiti, si fanno anche nella città di New Orleans, dove è cresciuto anche musicalmente Dr. John, che gira sempre con in tasca il suo mojo. Quello della canzone blues? Esatto, quello di I Got My Mojo Working. Il mojo è praticamente un feticcio con il quale si fanno i rituali, e quindi magari il filtro d'amore e via dicendo. Quindi, oltre a Dr. John, cosa succede a Parigi? Cos'altro possiamo segnalare? Musica nuda di Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, martedì 27 alle Musée de la Fédération Française. Allora, Spinetti e Magoni a Parigi il 27, da non perdere anche loro. E torniamo alla musica dedicata ad Haiti da Jacques Schwarzbart. Questo è un altro brano bellissimo, con la partecipazione della vocalist Stephanie McKay, che Jacques Schwarzbart ha incontrato quando militava nella super band Factor, quella guidata dal trombettista Roy Hargrove. Eccolo qui, il brano si intitola Contredanse, questo dovrebbe essere pronunciato alla francese, credo, perché ad Haiti si parla il francese. Sì, hanno un linguaggio molto simile al francese. E mi sa che il signor Jacques Schwarzbart, per tutti i paesi che ha girato, è anche un poliglotta, e lo è anche musicalmente. Ascoltiamolo in Contredanse, una sua composizione con Stephanie McKay qui al soundcheck di Radio 24. Yeah. Can you hear me? Soundcheck, il suono della musica. Orecchi attenti degli appassionati di musica che seguono il soundcheck di Radio 24 avranno riconosciuto la bellissima melodia intitolata Di Sole e di Azzurro, questa però la versione strumentale, brano scritto da Matteo Saggese e da Zucchero Fornaciari, brano che poi ha portato anche al successo l'edizione originale, quella cantata dalla nostra bravissima Giorgia, e questa è la versione strumentale realizzata da Life Stories, questo è il nome di questo quartetto riunito dal producer Matteo Saggese, italiano salernitano che vive a Londra ormai da diverso tempo, che riunisce allo Zorc Studio di Buccino, uno studio di registrazione bellissimo, musicisti meravigliosi come Dario De Ida al basso elettrico, Julian Oliver Mazzariello al pianoforte, Rod Fender, Enzo Zirilli alla batteria e un veterano della chitarra come Jim Mullen, inglese di Glasgow, che è un veterano del jazz e che ha segnato anche delle pagine importanti nel periodo della fusion. Chiudiamo proprio con questo album, questo appuntamento del soundcheck. Noi ritorniamo domani sempre su Radio 24, prima parte alle 15:30 con ospite il maestro Rocco De Rosa e poi seconda parte con ospite Raffaele Casarano, giovane sassofonista pugliese che ha firmato un contratto con la Took Music di Paolo Fresu, nella seconda parte quella che inizia alle 19:15. Grazie a Francesco Tromba per la partecipazione. Vuoi salutare il tuo pubblico? Sì, grazie a tutti per averci ascoltato. Grazie a te Francesco per tutte le informazioni. Chiudiamo ancora con Life Stories, quindi quest'oggi vi abbiamo presentato diverse novità. Anche questo un classico che viene dal pop, non dal jazz, rivisitato dai Life Stories, ovvero Zirilli, De Ida, Mullen e Mazzariello. Il brano è Seven Days di Sting. A tutti voi buona serata, buon weekend, noi ci risentiamo domani e buona musica da Gigi Telesforo.